facendo credo un gesto di coraggio, ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica, che magari è un incentivo per tanti per andare a votare contro. Perché però lo dico? Non è il tentativo di trasformare un referendum, come ha detto qualcuno, in un plebiscito, è l'assunzione di un principio. Finalmente c'è responsabilità da parte di chi governa. Siamo stati abituati ad avere per anni il pantano, sempre gli stessi che si davano il cambio in modo ciclico. Io vorrei una cultura più anglosassone, in cui fai uno, due mandati, io spero di farne due, e poi te ne vai. Se però nell'elemento chiave di trasformazione del sistema arrivi alla riforma costituzionale, che è la partita sulla quale ti sei giocato tutto, ecco, se io perdo devo avere il coraggio di dire, senta, che devo trarne le conseguenze in un paese in cui non perde. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 45esima puntata di Fuoco alle Polveri. Buonasera, buonasera. Ciao Bracco, benvenuto. Buonasera. Come sempre siamo tanti. Abbiamo la regia del nostro grande drago, Cav, Mario, qui dietro Beastie Frilli, e un ospite speciale che tra poco scoprirete insieme a noi. Allora, oggi che giorno è? Oggi è il 4 dicembre, come ci ricordava la nostra citazione. È un bel salto, ragazzi, tornare così indietro di un anno. Un anno fa. Responsabilità, mi raccomando. Responsabilità. Sì, sì, sì, abbiamo visto che in effetti è un grande cambiamento nel programma politico. Cioè, era stato detto. Era stato annunciato. Esatto, se il 4 dicembre 2016 il referendum non va come deve andare, quello che all'epoca era il premier Matteo Renzi non solo si sarebbe dimesso, ma avrebbe addirittura lasciato la politica. Insomma, un atto di coerenza. Oh, finalmente un uomo coerente. Oh. Oh, ci mancava di nella politica italiana un personaggio di questo tipo. Già. Volevamo ricordarglielo, ma tanto... Non ci ascolta. Sì, sì, sicuro. Sì, sicuramente ci ascolta. Siamo certi. Allora, Renzi voleva il modello anglosassone e di anglosassoni parla il nostro 45 di oggi. Allora, volete sapere 45 come cosa? Vai. Quando, dove? Allora, 45 come il numero 45 della rivista The North Briton, uscito il 23 aprile 1673 in Inghilterra, che vede come autore di un articolo molto importante John Wilkes. Quindi il 45 l'abbiamo nel numero del North della Britain. Rivista. Esattamente. Pensate. Allora, nel 1673. Quindi ieri l'altro. Urca. Sì, ma esatto. Quanto sono adesso? Come, quanto è passato? No, vabbè, fai inizio? Anche il conto. Non lo so. Allora, 3, 7 secoli, secoli. Sì, esatto. Perché interessante, perché nel mondo anglosassone dice che il 45 è tutt'oggi visto come una sorta di simbolo della libertà di pensiero e di espressione. Perché il nostro John Wilkes iniziò, diciamo, uno dei primi in Inghilterra ad utilizzare la stampa in un momento in cui la corona impediva la libertà di stampa, ad usare appunto la stampa per criticare la politica. Quindi sceglie un giornale satirico, perché il North Briton era un giornale satirico, anche lo stesso nome prendeva un po' in giro gli amici scozzesi, appunto, detti North Briton. E quindi sceglie di utilizzare questo mezzo per combattere la sua battaglia sulla libertà di stampa, libertà di pensiero. E nel numero 45 fa la grande accusa che poi porterà successivamente alla caduta di Giorgio II. Pensate. Il re. Esattamente. Giorgio II però appena esce questo articolo non sta fermo, ma anzi lo arresta. Emana un mandato di arresto per lui e tutti quelli che hanno collaborato. Ma vengono fatte delle perquisizioni illegali. Aveva l'immunità parlamentare, quindi viene rilasciato poco dopo. ma poi successivamente, anche se la perquisizione è illegale, trovano dei libelli che all'epoca, certo, erano all'indice, e quindi viene ripreso e rincarcerato. Ma l'accusa consisteva? L'accusa è sedizione, istigazione alla rivolta contro il re. E... sì, sì, no, l'accusa che veniva... Ah sì, vabbè, allora non sto ora. Lui lì, l'accusa principale, praticamente ragionava del fatto che il re d'Inghilterra aveva regalato delle terre ai francesi pur avendo perso la guerra nel Nord America, no? Tutta la guerra tra le colonie inglesi e francesi nel nord del Canada. Insomma, faceva tutto un jacuzzi molto pesante, e che poi porterà alla caduta di George II. Però, insomma, 45, numero 45. Oggi è la libertà di espressione, e secondo me ci sta anche abbastanza fagiolo. Direi proprio di sì. Molto bene, molto bene. Che si fa? Mandiamo un pezzaccio? Mandiamo un pezzaccio, Prima dell'intervista? Esatto, cosa ci mandate, regia? Andiamo di pezzo, Little Barry con Starfell. Wombat. Eccoci qua, tornati. Allora, dicevamo, abbiamo un ospite. E un ospite che sicuramente conoscete, attiva da oramai tanti anni, si può dire tutta la vita? nelle politiche fiorentine, eccola qua, sentite la voce. Ornella Di Zordo. Da quanti anni? Da quanti anni? No, tutta la vita. Va bene così. Tutta la vita può essere tutto o niente. Bene, benvenuta. Buonasera. Grazie di essere venuta ai nostri microfoni. Invito. È un onore, quasi un'emozione. Allora, Ornella De Zordo, appunto, lavora nella, nella città di Firenze da veramente tanto tempo, ha portato avanti, porta avanti da un veramente diversi progetti che ci andrà a spiegare. Partiamo un attimino da iniziamo da una parte, diciamo così. Sì. Allora, abbiamo avuto modo, io in particolare ho avuto modo di seguire alcuni incontri di un ciclo che si è svolto, che si sta svolgendo in verità, sì, allo Spazio Inchiostro. E sì, sì, che abbiamo pubblicizzato varie volte appunto nelle nostre rassegne eventi. Che abbiamo pubblicizzato varie volte e il tema è appunto il diritto alla città. Sì. Quindi noi, insomma, ci preme magari partire da questo e che tu ci spieghi, certo, un attimino nel dettaglio che cosa rappresenta e che cosa sta succedendo, che cosa ci sta succedendo riguardo, sì, a questa cosa. Sì, mi piace proprio partire da questo concetto del diritto alla città, che non è uno slogan, che potrebbe anche funzionare come slogan, devo dire, però è qualcosa di più, è qualcosa di più, è in realtà una rivendicazione che per fortuna sempre di più si va diffondendo in molte lotte che abbiamo visto negli ultimi anni, e potrei citare lotte contro le grandi opere, per esempio, certo, potrei citare tutto quello che è il grosso movimento del diritto all'abitare e tante altre rivendicazioni sociali e politiche che noi vediamo nella nostra città, ma non solo. Perché è importante questo concetto di diritto alla città? Perché secondo me dietro c'è un'analisi, c'è un'analisi che è proprio importante tenere presente, senza farla tanto lunga e senza andare sul teorico ovviamente, okay, però diritto alla città significa rivendicare quell'agibilità di vita che sempre più nel corso del tempo è andata sparendo. Gli abitanti, quelli che lavorano, che studiano, che vivono nelle città, si vedono sempre di più sottrarre degli spazi di agibilità. Agibilità sociale, di vita, anche del quotidiano. E questo non è un fenomeno così casuale. Dietro c'è qualcosa di molto preciso. E cioè, per dirla proprio con due parole, il fatto che il capitale, sposare, è vero questa parola? Ecco, il capitale si è progressivamente reso conto e dunque si è aggiustato su questo, sul fatto che il profitto non si estrae più come era una volta nei luoghi di produzione, eccetera, eccetera, ma ci sono dei luoghi che sono perfetti per estrarre il profitto e sono le città. Questo, ci sono bibliografie intere su questo, naturalmente saltiamo a piè pari, però il concetto noi lo dobbiamo tenere presente. In che senso le città diventano il luogo in cui il profitto si estrae così facilmente? Ma nel senso che, per esempio, noi vediamo, cioè, partiamo dalla privatizzazione dei servizi, per esempio, che cos'altro è se non questo? O ancora il discorso degli spazi appunto che un tempo erano tutti dedicati a chi abitava nelle città e che adesso sono, in particolare nelle città che erano e che sono città d'arte, ma ci arriveremo, sono invece sempre più requisiti e stanno diventando spazi in mano al mercato immobiliare, che naturalmente non è che dico li dedica alle case, certo, popolari, no? È chiaro, ci saranno gli hotel di lusso, ci saranno gli studentati. Ah, ecco, questa è una cosa anche più nuova, il famoso studentato di lusso, no? Quello, cioè, quello che a Firenze verrà fatto, lo stanno già facendo. Abbiamo parlato uno, sì, degli studentati, se non, ce ne sono, se più, no, due, ce ne saranno più due, verranno fatti diversi, no? Sì, però quello di cui si parla, e giustamente perché è enorme, è quello nel famoso Palazzo del Sonno nel viale Spartaco Lavagnini, esatto, alla Fortezza, Palazzo delle Ferrovie, che è stato venduto, è stato acquistato da questo genietto, no, della finanza speculativa, certo, immobiliare, che ha pensato questa bella trovata. Allora, beh, studenti, sappiate che se avete 800 euro al mese per una stanza potete tranquillamente andare nello studentato di lusso in Viale Spartaco Lavagnini, certo, per esempio. Questo era solo un esempio per dire che tutto quello che viene in mano al mercato deve ovviamente alzare il livello economico, perché non si fanno profitti altrimenti, no? Sì. Esatto. Ecco, allora, questo era un altro esempio, diciamo, no, di come lo spazio della città viene sottratto, e quando si dice è in mano al mercato, ma non è un concetto astratto, anche veramente. Se volete, facciamo un altro esempio, andiamo nell'ambito della ristorazione, no, della distribuzione, che cosa è diventato quello che era un mercato tranquillo e pacifico di San Lorenzo? Sì, no. Ne vogliamo parlare? È diventato una specie di Disneyland del gusto perché sì, poi ora appunto non è più il cibo, non si parla più di cibo ma si parla di food, no, naturalmente, e così via. Ecco, allora il diritto alla città invece dice una cosa molto semplice in una frase, che le città devono essere di chi le vive, di chi le abita, di chi ci studia dentro, di chi ci lavora. Quindi non parliamo di cittadini, che a me sembra un concetto che poi anche sta stretto da troppe parti, diciamo i cittadini, chi sono i cittadini? Insomma, diciamo la popolazione, no? Quelli che attraversano le città, anche che ci vengono solo perché ci vengono a studiare, voglio dire, no? Certo. Ecco, bene. Ecco, ma... allora, ecco, questa trasformazione è un, appunto un processo che si diceva non casuale. E da quanto sta, quando è iniziato? Si può ritrovare un inizio? Allora, come tu sai, gli inizi sono sempre difficili a ritrovare, non è che c'è una data come quella che avete citato prima, certo. No, è chiaro, c'è, però c'è una fase, certo, una fase in cui questo sistema sempre di più si è gettato e sulla finanziarizzazione e sulla, appunto, sulla privatizzazione di quello che è, sono i servizi e lo spazio, perché poi la città è un luogo, uno spazio. Quindi diciamo che negli ultimi decenni abbiamo visto sempre di più incrementare questo fenomeno. Devo dire che Firenze è un ottimo punto di osservazione da questo punto di vista, perché è una delle città d'arte che più si presta esattamente a questa riconversione di città vetrina, no? L'abbiamo anche usato questo termine. Ecco, sì. Perché? Per quali caratteristiche? Ma perché appunto è una città d'arte. Allora, una volta c'erano le città d'arte, oggi ci sono le città turistiche. Ora, non lo dico io questo, c'è tutto dietro un ragionamento anche molto interessante. E ora, noi abbiamo presentato tra le altre cose il libro di Marco D'Eramo che si chiama Il selfie del mondo, che parla proprio di questo. Cioè, una volta c'era una volta la città turistica. Cos'era la città turistica? Era quella in cui c'erano degli abitanti che vivevano lì e convivevano con tutta una enorme ricchezza di beni culturali che il passato aveva tramandato, no? Quindi erano delle città in cui poi la gente veniva, c'è sempre stato il turismo, non è nato oggi, va certo, bene? Certo, però a un certo punto negli ultimi decenni cosa è successo? Che sempre di più la città è diventata qualcosa che doveva essere rivolta al fenomeno del turismo, il che significava che qualunque decisione le amministrazioni prendessero erano decisioni che andavano incontro a favorire il turismo e automaticamente a scacciare quella che era la popolazione, la cosiddetta residenza originaria, si chi diceva una volta. Chi lavora, esatto, chi studia, perché, e questo è stato ben studiato, ho citato questo libro, ma insomma ce ne sono molti altri, ma questo davvero l'abbiamo ritenuto molto interessante, perché spiega molto bene. Cioè, più un'amministrazione si rivolge ai bisogni, o io direi meglio ai desideri più o meno ipotizzati del turista X, e meno risponde ai bisogni, alle necessità della popolazione. Certo, scusate, ha un certo tipo di turismo? Esatto. Nel senso, cioè, perché si svolge un certo tipo di turismo, sì, mi pare, no? Cioè un turismo usa e getta, mi verrebbe da dire. Allora, sì. Però attenzione, usa e getta inevitabilmente, perché poi dico non ci sono più i soggiorni, non ci è più l'inglese che per l'appunto veniva giù, faceva il grand tour, si fermava, certo, un mese, no vabbè, questo già voglio dire non c'è più. Quindi è chiaro che il turismo è un fenomeno veloce e deve essere sempre più veloce, perché deve far girare sempre più velocemente il denaro. Se voi guardate la media di quanto si fermano i turisti a Firenze è impressionante, perché la stragrande maggioranza si ferma per un pernottamento. Addirittura ora abbiamo il fenomeno dei giornalieri, sì, cioè di quelli che vengono dalla mattina alla sera. Sera con, certo, le crociere. Esatto, i croceristi detti, perché già sono tutte le etichette, no? Che vengono. Esatto. Quindi, altro che. Allora, io. Sapete perché ho aspettato un secondo a rispondere alla domanda? Perché in questo usa e getta non vorrei che ci fosse poi un qualcosa di un pochino così snobbish, posso dire? Sì, sì. Nel senso che sembra proprio il turismo un po' dei poveretti, no? Quello usa e getta così. In realtà il turismo così veloce, mi sembra di poterlo chiamare così, è anche quello di lusso. Infatti, cioè, prendevo quello. Esatto. Cioè, la permanenza, la durata della permanenza, non è che proprio necessariamente sia legata al livello, diciamo, economico di chi viene in questa città. Perché se vedete i vari gruppi di coreani che sono chiaramente molto abbienti, perché poi si vede che escono con le buste tutte griffate, eccetera, eccetera, fanno lo shopping. In realtà anche loro non è che stanno qui 20 giorni, intendiamoci. Certo. Quindi, allora, il modello del turismo è quello della velocità. Quello che c'è da dire è che la preferenza viene data al turismo ricco. Ecco, e infatti, questo può essere dire. Il caso nel caso degli studenti, dello studentato, sì. a 800 euro e degli alberghi che sempre alberghi di più vengono fatti a 5 stelle e anche probabilmente delle saponate sulle gradinate dei ecco dei, perché mi interessava questo discorso che discorrendo, no? Allora bisogna stare attenti, perché se voi entrate ovunque nel centro della città, voi sentite questi, cioè effettivamente le persone vivono qui non ne possono più, no? Di sentirsi i trolley che si passano sul dito mignolo del piede, di vedere tutto queste cose, sono tutti, e quindi c'è questo lamentio continuo, no, sti turisti, eccetera. Ecco, quella è una cosa che non porta molto lontano, perché poi finisce che uno se la prende col turista, certo. e non capisce che c'è una costruzione dietro, certo. no? Non è un caso, dico, di tutta questa folla. E quindi in questo senso, insomma, mi sembra che in realtà si debba vedere meglio il fenomeno. Allora, se voi vedete che cosa sta succedendo ai grandi immobili, anche di proprietà pubblica del comune, che vengono venduti, ecco, lì la preferenza è venderli alle grandi compagnie, alle grandi catene immobiliari internazionali, perché facciano delle cose di lusso, perché è quello che interessa fare. Esatto. Allora, parlavamo appunto del rapporto tra, diciamo, attenzione data alla questione del turista e attenzione data alla questione dell'abitante. Si capisce appunto da quello che dici che la priorità tendenzialmente viene data alle attività che portano più, sì. più soldi e quindi fanno girare più il mercato, e quindi si immagina, si può dire che il turista ha una posizione di privilegio nei confronti sì. dell'abitante. Dall'altra parte c'è anche una grossa diciamo, l'amministrazione fiorentina si vanta molto di andare contro, di portare avanti una politica di lotta al degrado e di conseguenza di contrapporre un decoro. Sì, ora qui io sto facendo chiamato. Delle facce che in radio non si vedono, quindi sì, no, nel senso, ci vorrebbero tutte le virgolette, no? Ci vorrebbero tutte le virgolette, non è che si può usare ormai più la parola degrado, decoro, senza dire... Facciamole con assolutamente, la voce. Degrado, decoro. Volevo chiederti proprio questo, cioè a chi sì. è indirizzato questo decoro? Sì, allora, chi è sono? Molto legato a quello che si stava dicendo finora, perché capite bene che se Firenze deve essere questa città che ha un marchio che viene venduto sul mercato del turismo internazionale di lusso, è chiaro che deve presentarsi anche in un certo modo. Ecco il concetto di città vetrina, no? Che noi abbiamo ben chiaro. Allora è evidente che all'interno di questa vetrina noi non possiamo far vedere anche le cose che possono essere, per l'appunto, tra virgolette, sgradevoli alla vista. Quindi da quella porzione di città, che di solito corrisponde al centro storico, eccetera, eccetera, dovranno essere cacciate tutte quelle attività e anche tutte quelle persone che scomode. Vengono definite degrado, semplicemente perché non sono conformi a quell'immagine di lusso, di benessere, di non so che cosa, che si deve vendere sul mercato del turismo. Questo è il punto. Ecco perché è così collegato il fenomeno. Ora guardate, non è che adesso dobbiamo far risalire tutto al turismo, perché sennò sembra che sia la madre di tutti i mali. Stiamo parlando di questo perché effettivamente è qualcosa su cui finora non si è posta molto l'attenzione, e quindi perché dietro c'è un mercato molto forte, sì. però voglio dire, non c'è solo quello, intendiamoci. è il concetto che la città deve essere comunque qualcosa di ripulita. Un brand. La famosa immagine della polvere sotto il tappeto, eccetera, eccetera. No, guardate, è tutto vero. Non è cominciata ora, questa cosa. Io credo adesso, avendo osservato abbastanza le ultime fasi di questi, delle amministrazioni di questa città, io ricordo che il primo... insomma, la prima norma che si chiamava antidegrado era quella del Cioni, assessore all'epoca, contro i lavavetri. E quindi qui si parla ancora della giunta Domenici, certo, quindi prima di Renzi. No, perché anche qui vanno un po' messe le cose in chiaro. Ora poi, certo, Renzi ha esasperato, no, se vogliamo, questo aspetto molto. Ora devo dire, Nardella sta superando il maestro, perché sta applicando in maniera molto... Beh, con il decreto anche Minniti ci sono degli strumenti anche molto... Certo. Ora, un esempio mi è venuto in mente di questi giorni è, ora, cambio città, è Bologna. Sì. Però è stato dato il DASPO a dei barboni. Ho sentito, ho letto, fondamentalmente. Sì. Che è una cosa un po'... Cioè, è curiosa, è allarmante, pericolosa. Perché è pericolosa. Dire allontanare, cioè usare uno strumento dato, grazie appunto a Minniti, per allontanare qualcuno la cui unica colpa è dormire sotto un portico. È quella di non essere ricchi. È quella di non poter... È quella di essere poveri. Cioè, è tutto qui. È un precedente, c'è una cosa che... Ma non è soltanto Bologna. Tutti. Guardate, cominciano a esserci, a diffondersi degli esempi di questo tipo. Noi su questo a Firenze, insomma, si è anche lavorato, mi pare, no, contro il decreto Minniti, ancora prima di vedere le ricadute specifiche. Ricordo manifestazioni, ricordo cortei, ricordo, insomma, anche un movimento che proprio su questo, perché aveva capito benissimo che il fenomeno della repressione sta strettamente, è un po' il rovescio della medaglia, perché poi a forza di parlare di degrado non si dice invece la parola chiave, che è repressione. Esatto. Perché nel momento in cui tu cacci delle persone, cacci delle attività e delle persone, te stai operando una repressione nei confronti di strati sociali che appunto hanno questo difetto, no, che sono poveri. Di non essere presentabili. Certo, non sono presentabili. Quindi è tutto collegato, ripeto, non solo turismo ma anche un'idea di città. Ecco perché il diritto alla città è importante, secondo me, perché nega proprio questa visione, che è quella dilagante, no? E quindi, tra l'altro, insomma, va anche detto che a forza di incentivare insomma, questo standard molto alto economicamente, sia, non so, Italy che apre, no, questa cosa del gusto, che viene il coso del gusto a quello che era il vecchio mercato, da San Lorenzo. Ora vediamo cosa succede a Sant'Ambrogio, perché non vorrei che anche lì ci fossero delle operazioni che Sant'Orsola. Sant'Orsola, insomma, a forza di tutto questo cosa succede? Che poi, anche se la gente non viene cacciata attraverso sistemi repressivi, che sono quelli più evidenti, insomma, e più pericolosi, però se ne va lo stesso, perché non regge i costi. Esatto. Le botteghe chiudono perché gli affitti vengono triplicati, gli appartamenti si svuotano. Ma voi sapete che il 18% degli appartamenti nel centro storico di Firenze stanno nel circuito Airbnb. Allora uno mi può dire, beh, ma che c'entra Airbnb con gli hotel di lusso? No, invece c'entra, perché non è vero che Airbnb ridistribuisce, diciamo così, questa ricchezza a pioggia, perché in realtà, se andate a vedere, ci sono dei soggetti che hanno più di 100 appartamenti, tutti che fanno capo a un soggetto, e quindi anche quella è una forma assolutamente, capito, di accentramento proprio, no? Insomma, così, della ricchezza e anche del profitto. Esatto. Che ne viene, sì, fuori. Che poi è venduto come il contrario, fra l'altro. Esatto. Quindi è ancora più pericoloso. È per questo, senso, che va detto. E guardate, c'è una ricerca molto interessante che è stata fatta da due ricercatori, ora se lo trovo ve lo dico. Che l'abbiamo presentata anche lì allo Spazio Inchiostro, di Siena, dell'Università di Siena, che è stata pubblicata, e noi rinviteremo ancora questi ricercatori, perché abbiamo avuto anche troppo poco posto, spazio, diciamo, per da dare a loro. Ma questa è una ricerca bellissima che prende 5 città in Italia, tra cui Firenze. Stefano Picascia. Esatto. Ecco, e lui, e insomma, sono due, tra l'altro, noi abbiamo invitato uno, ma anche l'altro è interessato a venire, lo avremo a breve, ve lo faremo sapere. Praticamente danno delle percentuali, no? E dicono che in realtà, per esempio, prendiamo Firenze. Il 48% degli host, cioè di chi ospita, no? Con Airbnb, sì, ha guadagnato sotto i 5.000 euro. E però 700.000 persone hanno guadagnato in media molto di più. Cioè sono pochi quelli che guadagnano tantissimo con Airbnb e sono molti quelli che guadagnano pochissimo, perché qui c'è gente che appunto in un anno ha guadagnato pochissimo, perché magari ha affittato una stanza per un mese, certo, su 12. No, certo, anche certo, perché, certo. E posso dire anche, purtroppo, sì, avendo a che fare col settore, che spesso Airbnb come dire, viene usata come copertura, ovvero qualsiasi struttura anche formalmente alberghiera certo, e ad uso turistico, sì, fa comunque ricorso ad Airbnb, perché altrimenti rimane fuori da una fetta di mercato troppo grande. Quindi, esatto, in realtà un sacco di alberghi, un sacco di B&B mettono camere all'interno di Airbnb spacciandosi come case. Esatto. E in Italia il giro che loro di denaro che loro hanno calcolato, in base a studi che hanno fatto, eccetera, è di 4 miliardi di euro in un anno. Quindi insomma non proprio noccioline. Se considerate che sono molto concentrati appunto in strutture che poi si camuffano, no? Tutto sommato non è un vero Airbnb. Cioè lo dice, ah che bello il modello diffuso a Cuba, no? Quella che ti ospita. Ecco, allora chiariamoci anche su questo. No, questa è un'industria lì dietro. Poi ci sarà anche la signora che affitta la camera per, ripeto, una settimana ogni tre. Vabbè, ma non è quello il livello dominante. Certo. Esattamente, poi appunto cioè questa cosa di Airbnb, c'è una al di là di come è nata, spiegava Pihascia, che in verità è nata come per come era nata poteva essere una cosa buona, perché cercava all'apparenza di ridistribuire diciamo i proventi del turismo tra gli abitanti, poi si è visto che non succedeva, certo, che non succede di fatto così. Però insomma gli abitanti che non lavorano con Airbnb subiscono una conseguenza piuttosto pesante, perché gli affitti a Firenze, esatto, sono saliti credo in un anno di una, esatto, cosa tipo il 15%, quindi certo, questa porta, come dicevi tu, appunto all'espulsione dai punti sì, più dal centro tendenzialmente, ma secondo me non solo dal centro, anche perché comunque un appartamento nell'immediata periferia sono cari anche quelli, sono cari anche quelli, certo, esattamente, cioè, quindi io immagino che una zona come Statuto, come quelli, sì, ora magari insomma, con la tranvia un attimo, aspetta, vabbè, sì, un secondo, però, ora insomma, non ci allarghiamo troppo, però sì, no, il concetto è quello, questa sì, è sì, una delle, certo, delle grosse conseguenze di questo sistema sugli abitanti. Su questo posso dire una cosa? Prego. Allora, un'altra, sempre collegato a questo fenomeno, per esempio nelle zone più pregiate, insomma si comincia a dire che le case popolari lì forse non va tanto bene, perché, e faccio l'esempio di Via dei Pepi. Allora forse avete voi seguito, no, la cosa. Allora ci sono delle case popolari in Via dei Pepi che sono vecchie case popolari. Allora già ci fu un tentativo, ma tipo 25 anni fa, di venderle, ma lì c'era un movimento grosso. Io qui devo ricordare poi dopo anche tutta l'operazione di Lorenzo Bargellini, certo, che insomma in quel quadrilatero ci ha vissuto, lavorato e si è impegnato per tenerle, eccetera. Quindi morale, insomma, ancora oggi ci sono degli alloggi, case popolari, Via dei Pepi, zona Santa Croce, no, naturalmente sono di proprietà del comune. Allora il comune ha messo in vendita un pacchetto, perché così si fa, non è che il comune vende un appartamento, cioè prende una serie di immobili, ne fa un pacchetto e poi nardella con la valigetta, tipo appunto quello che va sul mercato immobiliare, va a Monaco, di qua di là. Magari così può fare un bello scontone, un bello sconto pacchetto. Bravo, sono delle svendite alla fine, perché insomma poi capisce, no? Beh, però intanto il comune può fare cassa, eccetera. Allora, che cosa è successo? Che ha messo insieme altri 20, insomma, grosse cose, immobili, e il tutto è sul mercato. Ora, il piccolo particolare è che per legge regionale le case popolari non si possono vendere, e se le vendi devi reinvestire in alloggi popolari quello che... Il il comune di Firenze sembra aver ignorato questa legge, si è aperto addirittura un contenzioso con la regione toscana, la quale ha detto: no, momento, chi ne prova contraria alla legge regionale va sopra le decisioni del comune. Quindi c'è un momento di stallo, eccetera. C'è una rivendicazione però anche di chi abita nelle case popolari, cioè ora va bene le vie legali, no, vanno bene le diatribe tra regione e comune, se poi giocano a favore, dico, no, della, diciamo, della lotta, va benissimo, però è anche importante ci sia una lotta poi dei soggetti che sono coinvolti, e in questo caso c'è stata una reazione e c'è un appello che gira, anzi io qui insomma voglio proprio dirlo, questo appello perché contro la vendita degli alloggi popolari di Via dei Pepi sta sul sito di Per un'altra città, che è perunaltracitta.org, l'abbiamo pubblicato lì, abbiamo già raccolto le firme, ed è un appello che è rivolto non solo agli abitanti della zona, che dovrebbero essere anche i più coinvolti, ma che è stato firmato già da molte persone anche al di fuori ovviamente della zona. Quindi andate, leggetelo, e se siete d'accordo firmatelo, perché è importante anche come segno di interesse, diciamo, no, e di partecipazione da parte di chi non abita lì, insomma, perché non è che si può poi lasciare tutto sulle spalle di chi, no, sta in quella zona. Benissimo. Un sacco di cose ci stai raccontando. Che facciamo? Mandiamo un pezzo così per... Sì, allora, ascoltiamoci un po' di music e poi torniamo a parlare sempre di diritto alla città, qui su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri. Wombat. Pensi davvero che sia una buona idea stare seduti in un bar fino alle 9 di sera? Bere un altro bianco sarti guardando la gente, discutere di ferie e lavoro, fare finta di niente, parlare di Firenze, di come è invecchiata dall'ultima volta che l'ho salutata. Penso che sia una follia andare all'IKEA, c'è sempre una gran confusione anche di sabato sera. Poi lo sai, mi fa tristezza vedere la gente che sogna di comprare tutto e si accontenta di niente. Mi guardi e sorridi, non sono cambiato dall'ultima volta che mi hai perdonato. Che cosa vuoi che ti dica? Con te sto bene, anche se ormai è finita. Lo so che non basta un bicchiere per sorridere e dimenticare, ho le mie solite bugie, le mie sciocche fantasie, ma stasera ho voglia di brindare a un'altra storia d'amore per noi che non ci amiamo più. Pensi davvero che sia una splendida idea andarcene al cinema Flora a vedere Fellini, mangiare popcorn in platea come due ragazzini, scambiarci commenti osceni, scandalizzare i vicini? Che bella Firenze, le sere d'estate, del centro, le nostre risate. Beh, ma cosa vuoi che ti dica? Ti voglio bene, anche se ormai è finita. Non sarà certo mastroianni a cancellare di colpo 6 anni, e non sarà questa stupida sera a cancellare una vita intera. Ma stasera ho voglia di girare ancora un altro finale per noi che non ci amiamo più. Rieccoci qua, caro Tuho. Ragazzi. Caro Bracco, allora siamo qui a parlare appunto di diritto alla città. Il discorso va avanti e si dipana in tutte le sue sfaccettature. Sì, sfaccettature che abbiamo in parte, secondo me, già trattato, perché a me, sentendo parlare Ornella, viene anche in mente appunto la questione di Mondeggi, che proprio pochi giorni fa ha avuto, certo, c'era la chiusura del bando di interesse. Sì, la manifestazione di interesse. Della manifestazione di interesse, che è uno dei modi che viene utilizzato non solo per Mondeggi, che appunto essendo un bene della città metropolitana, ma per una quantità enorme di appunto, sì, immobili. Ti, certo, hai portato, ci dicevi, ma noi come laboratorio abbiamo fatto, un laboratorio per un'altra città, abbiamo fatto un po' il conto. Antonio Fiorentino, devo dire uno dei nostri del gruppo urbanistica, è stato molto bravo, e quindi l'ha poi sistematizzato. Ma io se dovessi leggere tutti davvero gli immobili di pregio, quelli grandi, che dal teatro comunale, no? Qui si risale al 2015, sì, la vendita a questo Nikila Invest, no? Che l'ha comprato per 25 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti, che ormai fa da intermediaria, va bene, cioè, la compra la cassa e poi dopo sì, eccetera. E naturalmente era stato stimato 44 milioni, è stato venduto per 25. No, faccio solo questo esempio per dire, quando parliamo di svendita, poi non è un modo di dire, è vero, perché è chiaro che se vai sul mercato e vendi certe cose importanti, poi dopo vuoi fare appunto cassa, non è che ti stai lì a aspettare e quindi. E poi Palazzo Vivarelli Colonna, Palazzo Demidoff, Gerini in via Buonarroti, Convento dei Filippini in piazza San Firenze, l'ex tribunale, no? L'ospedale San Giovanni di Dio, la villa di Rusciano, tutta roba in vendita, molte non ancora vendute perché è difficile piazzarle, ma intanto o sono intanto vuote sono o sono... Manifattura Tabacchi, ne vogliamo parlare? Che è 88.000 metri quadri. Quello in buona parte è già stato anche venduto, se non sbaglio. È stata ceduta al Fondo Internazionale, ecco. Certo, Real Estate Fund. Anche lì, se non sbaglio, ci faranno uno studentato di lusso come quello. Tra le altre cose, perché in 88.000 voglio trovare studenti, nemmeno se tu fai studiare tutti quelli. Scusa. Poi il Palazzo del Sonno, 21.000 metri quadri, quello di cui si parlava prima, The Students Hotel. E questo giovane società olandese che avrebbe inventato l'ospitalità ibrida, cito, quindi albergo e residenze per studenti. Poi tutte le ex caserme, ne vogliamo parlare, Costa San Giorgio, il panificio militare. Che ho visto come in questi giorni è stato, sì, destinato a un'Esselunga, credo. Sì, c'era un vecchio progetto che naufragò, mi ricordo quando c'era Biagi, appunto con Domenici si fece un'assemblea infuocatissima in cui alla fine Viaggio tutto scornacchiato, insomma dovete un po' tornare indietro sulle cose, si bloccò tutto e poi naturalmente è andata avanti, poi, non con quel progetto là che prevedeva molto cemento di più, però certo un'Esselunga, non lo so, e poi niente, magari volevo citare l'ex Monte dei Pegni di via Palazzuolo, perché è una cosa recente, che anche quello si trasforma in hotel di lusso a 5 stelle con 100 camere. Mentre e acquistata dalla tedesca Arti Invest Real Estate, aveva un valore ben diverso. Vabbè, allora insomma, ma poi potrei continuare, non lo voglio fare, ma dalle Gualtiere di Remole fino all'ex officine grandi riparazione alla Leopolda sono tutti immobili che erano di enti pubblici, che sia il comune, che siano le ferrovie, insomma eccetera eccetera. Bene, tutto questo è in vendita e naturalmente chi è che si può permettere di acquistare questi edifici? Solo è chiaro, no? Grandi, quindi, grandi gruppi, ecco, persone con risorse, allora, mettiamola così. Tu, sì, esatto. Ma io immagino naturalmente che queste risorse poi finiscano agli abitanti in un, certo, in un qualche modo, spiegaci un po' come. No, nel senso che per esempio dalla vendita delle case popolari via dei Pepi Nardella ha detto che vanno per le grandi opere. Ecco. Ecco, ecco un altro, allora, punto, un altro punto. Vogliamo introdurre questo elemento. Questo è perfetto perché ci introduce un po', sì, alla questione delle grandi opere. Cosa trattata? Cioè, trattata due giorni fa c'erano in piazza diverse centinaia di persone. Certo. E ecco, come si inquadra come si inquadrano le grandi opere in questo contesto cittadino? È uno degli cittadino. Altri sistemi in cui si fa alzare il PIL, per così dire, e si estraggono profitti, perché tanto, voglio dire, molto spesso i soldi sono pubblici, però poi dopo, cioè, voglio dire, no? Quindi i privati rischiano molto poco, insomma. Vabbè, parliamo di questo territorio. Quali sono le grandi opere che vengono ora contestate, per fortuna, da movimenti che, insomma, da tempo si battono contro questo? Ma non perché siamo quelli del no, perché poi, guarda, ho visto addirittura nascere un gruppo che si chiama... No, i figli, no, i figli che vogliono l'inceneritore, sì, no, su Facebook. No, allora, voglio, io guardate, non dico niente perché, cioè, siccome ci sono le mamme, no, inceneritore, allora c'è il gruppo figli, sì, che vogliono l'inceneritore e dicono e continuamente scrivono anche a me personalmente: ma siete quelli del no, ma vi piacciono le discariche? Allora no, via, insomma, ormai non si può pensare siano in buona fede, perché sennò bisognerebbe capire, cioè pensare che non hanno, insomma, capacità ragionativa, sì, sì, no? Quindi vabbè. Allora, no, in realtà queste grandi opere sono... Allora, intanto l'aeroporto. La nuova pista. Allora, il nuovo aeroporto è direttamente, legato al discorso che si faceva. Chiaramente, perché è chiaro che un aeroporto in cui devono sbarcare 8 milioni di turisti, cioè di viaggiatori, diciamo, l'anno, anziché 2 come ora, vuol dire che uno c'ha in testa un'idea di città, perché se no non lo fai. Che cosa ti serve? Cioè, non mi venite a dire che è per gli uomini d'affari, no? Perché è chiaro che queste cifre... Quindi è un aeroporto, in tutto e per tutto, un aeroporto internazionale che vedrà sbarcare in questa città 8 milioni di persone l'anno. Naturalmente... è chiaro che è collegato a questo modello di città di cui si parlava. Poi cosa c'è? L'inceneritore. Vecchio progetto, come, cioè proprio roba che dice: ma avete studiato qualcosa negli ultimi 20 anni, oppure vi siete limitati a ripetere? Cosa ancora stai lì a dire che l'incenerimento è il sistema, quando poi c'è bisogno della discarica? Perché c'è il 25% esatto, che devi mettere in discariche speciali, quindi va bene. Ci sono altri sistemi, io non è inutile che citi ancora una volta da Capannori a San Francisco, perché mi sono stufata, ma insomma credo che noi lo sappiamo bene che l'alternativa non è la discarica, no? Ecco, è la raccolta differenziata, bla bla bla. Quindi quello, e quella è una lotta sacrosanta, perché la Piana è un territorio che deve essere assolutamente bonificato, deve essere salvato da tutte le cose che ci abbiamo buttato dentro, dalle terze corsie che invece ancora si vogliono fare, a case passerini, ai centri commerciali. Vabbè, diciamo che quello deve essere il centro, deve essere il salotto buono, e quello diventa la boom, no? Butti tutto quello che inquina lì, no, basta. Tutto quello non si per vuole fortuna vedere, c'è un grosso movimento che dice: no, qui noi non vogliamo più cose inquinanti, perché vorremmo vivere, insomma, no? Anche perché quelle cose, cioè, perché ci sono delle alternative che sembrano ben più valide, ma sono molto più avanzate. È questo, quando io ho detto: ma avete letto qualcosa nel frattempo oppure no? Perché ci sono cose molto più avanzate, ma naturalmente il profitto è la parola chiave. Cioè, con l'inceneritore te fai profitto, se fai il porta a porta magari dai lavoro alle persone, dunque redistribuisci sto reddito, no? E quindi vabbè. A parte tutto, guardate che c'è proprio... Vabbè, e poi l'altra cosa è il famoso tunnel. Il famoso tunnel TAV. Guardate, c'è una storia di studi decennali. Io ricordo che dal 2005 che noi abbiamo studiato, il nostro gruppo di Per un'altra città ha studiato e pubblicato cose insieme al Dipartimento dell'Università di Firenze, abbiamo fatto libri, cose, convegni, tutto. È così semplice, non serve a niente, perché i pendolari la difficoltà ce l'hanno prima di Campo di Marte, e il tunnel parte da Campo di Marte. Quindi, allora, qualcuno mi deve spiegare, anche Rossi dovrebbe spiegare, cioè, perché si dice che serve ai pendolari? I pendolari continueranno a pendolare nei soliti treni che si infileranno e lì ci sarà sempre la compresenza con la solita alta velocità. Poi però arrivate a Firenze, dove in realtà ci sono già 6 coppie di binari, si potrebbero tutti suddividere, no, allora lì si fa il tunnel, così l'alta velocità va sotto, dicevano, e sopra i pendolari, i quali a quel punto, voglio dire, si sono già suicidati prima di arrivare a Campo di Marte, certo, quindi no, perché poi bisogna conoscerle, no, le realtà, sì, lo sappiamo. Tra l'altro, oltre al tunnel c'è anche prevista una stazione, la stazione Foster, certo. Quando io ho visto, fra l'altro, presentare anche delle alternative. Un'alternativa, ad esempio, era riservare due binari alla stazione di Campo di Marte facendo una semplicissima fensilina, certo. Veramente con delle spese ridottissime e funzionale tanto quanto una stazione Foster, però questa cosa sull'idea di fare la superstazione, giusto? Sì. Allora, dunque, bastava aggiungere una coppia di binari in un tratto molto piccolo, e poi i binari noi ce li abbiamo già, che passano attraverso tutta la città, e avevamo anche varie fermate e stazioncine, stazioni da statuto, insomma, tante Rovezzano, stazioni. San Marco Vecchio, eccetera. Allora, alcune, vabbè, le hanno proprio fatte sparire, però tutto questo avrebbe voluto dire che in realtà c'era un investimento veramente limitato. Allora, il primo appalto era di circa 800 milioni di euro invece per tutto sto mega progetto. Naturalmente tutti sappiamo, facendo due calcoli proprio banali, che si sarebbero almeno triplicati, perché questo succede in Italia con gli appalti delle grandi opere, no? Allora, naturalmente c'è un giro grossissimo di affari, appalti, subappalti, cooperative, eccetera eccetera. E che fai poi? E che è chiaro, a questo punto va avanti così. Allora, la proposta era stata anche quella: bene, avete un appalto di 800 milioni, riconvertiamo quello e sistemiamo tutta una serie di cose in superficie, così i soldi girano lo stesso, ma magari in maniera utile. No, perché siccome quelli devono triplicare, è chiaro che non va bene nulla. Guardate, questo è ormai, purtroppo, insomma, chi ha studiato un po' che cosa significa le opere in project financing, no, tutti questi sistemi di scatole, lo sa bene, si fanno le grandi opere perché bisogna far girare soldi, cioè bisogna succhiare soldi, diciamo così, pubblici. Pubblici, certo. Non come l'aeroporto, che una parte i privati ci rimettono, ma lì sono tutti pubblici. E allora, a questo punto il progetto deve andare avanti. È sbagliato. Oltretutto si sono accorti soltanto ora che la stazione Foster dista quei 900.000 metri dalla Santa Maria Novella, che non rende agilissimo proprio, no? Uno scende lì, poi dopo deve andare, cosa fai? Il solito people mover, che è un altro bel buco, sì, nell'acqua di Pisa, no? Allora cosa si fa? No, ma siccome effettivamente non è più centrale per l'alta velocità, ci si fa un hub per i pullman turistici, così si mandano, pensa, i pullman turistici fino ai macelli, cioè dentro la città, dentro la città. E quindi si sta dicendo: è vero che non serve per l'alta velocità, allora a cosa può servire? Pensa. Ah, ci facciamo una stazione di pullman. Di pullman, che fra l'altro non è già stata fatta una ora all'uscita dell'autostrada a Villa Costanza, se non mi sbaglio. Già. Sì, però siccome, quindi, bisogna fare la stazione Foster, e cosa ci mettiamo dentro? Allora, che guardate, vanno riempiti questi buchi. Esatto, abbiamo detto anche qualcosa sulle grandi opere. Sì. Ecco. Senti, raccontaci un po' tutte queste cose. Voi, riferendomi a te e al gruppo di laboratorio. Del laboratorio. Sì. Spiegaci un po' che laboratorio, insomma, che cosa fate, di che cosa vi occupate. Allora, noi come laboratorio per un'altra città, che facciamo? Vabbè, lavoriamo in città, abbiamo lavorato negli ultimi 10 anni anche un po' con questa sfida che abbiamo fatto a livello locale come opposizione, anche in consiglio comunale, come veramente come elemento disturbante all'interno di un meccanismo, la famosa sabbia che butti nell'ingranaggio, no? E in effetti abbiamo fatto questo lavoro sempre come punto di raccordo di tutte le varie vertenze, le varie lotte in città, insomma, è chiaro, lavoravamo fuori e poi dopo lì dentro si dà, ma insomma lavoravamo anche molto fuori. Poi abbiamo anche deciso che non ci interessava neanche più, perché insomma ha fatto già quell'esperienza, cambiata anche la legge, insomma, quindi niente, noi abbiamo deciso che tornavamo a fare gli attivisti puri, come abbiamo sempre fatto appunto da tutta la vita, come tu dicevi giustamente, e molti di noi. E quindi con questa libertà assoluta e questo gran divertimento in senso alto, no? Perché è chiaro che se noi facciamo questo lo facciamo perché ci piace, perché non riusciamo a stare a casa, certo, e a stare zitti soprattutto, e quindi ormai siamo così. E allora abbiamo detto: che cosa può servire in questa città? Non l'ennesimo gruppo, che ce ne sono tantissimi che si occupano di tutto, eccetera. Facciamo una piattaforma online di servizio per tutto quello che c'è, che si muove nell'area dei movimenti, delle lotte, eccetera. E abbiamo messo su questa rivista che si chiama La Città Invisibile, che è una, che è una rivista online che esce ogni 15 giorni, sì, ogni 2 settimane, il mercoledì. E abbiamo detto: vediamo se c'è riscontro, se viene letta, se serve, si continua, perché insomma un po' di fatica ci costa, certo, farla, no? Ragazzi, cioè, insomma, e se invece poi vediamo che allora niente, si fa un'altra cosa. In realtà abbiamo avuto un grosso successo di lettori e lettrici, insomma, così, per cui continuiamo a farla. Sono usciti già 75 numeri. E quindi noi diamo voce. Allora, attenzione, non è che noi ci scriviamo la nostra rivista perché ci piacciamo e se pensiamo di avere le cose giuste da dire. Chiediamo a quelli che stanno nelle lotte di scrivere, e questo è quello che facciamo. La piattaforma è quella. Cioè, Mondeggi, non è che Lornella scrive di Mondeggi, no. Vai, Lornella dice: ci mandate un pezzo sull'ultima fase, su cosa, e ce lo, e guardate, ci stanno arrivando pezzi anche senza chiederli ormai, perché insomma è così, e quindi lì c'è bisogno di tutto di più. Ecco, però volevo dire che ora poi noi ultimamente, da maggio scorso, abbiamo intrapreso quest'altra avventura spaziale, perché ci abbiamo questo spazio che si chiama lo spazio inchiostro, con i Clash City Workers, che ci hanno un po' stanato, perché noi eravamo un po' pigri, no? Gestire uno spazio, ma no, ma che, ma figurati, ma no, ma qui, ma là. Alla fine poi loro l'hanno anche trovato, abbiamo detto: no, vabbè, allora non si può non andare. E quindi abbiamo lo spazio inchiostro insieme a loro, e lì facciamo invece una cosa bella, siamo molto contenti, anche perché è proprio un innesto generazionale che ci piace, perché noi insomma non è, certo, che proprio siamo nati ieri sera e biograficamente, e invece loro sono tutti giovani, sono tutti sui 30, anche meno, 25-30 anni, quindi ci piace da morire, e noi prendiamo molte lezioni da loro, qualcuna anche loro da noi, ma nel senso proprio bellino, sarà, no, certo, della serie, eh? E noi e facciamo insieme delle cose che sembra avere un, insomma, abbiano un certo riscontro. Per esempio questo ciclo sulla fabbrica del turismo nelle città d'arte. Anzi, colgo l'occasione per dire che domani c'è il quarto, esatto, appuntamento. Lo dici tu? No, prego. Dico prego io? Allora, martedì 5 alle 18 allo spazio inchiostro di Via degli Alfani 49, su cultura e turismo, e l'abbiamo chiamato cultura e turismo, appunto turismo e cultura usa e getta, ma c'è anche molto altro, perché se no si fa soltanto il cahier de doleanze, questo non va. Allora no, c'è un sacco di roba bella che non è la cultura ufficiale, quindi verranno allora quelli della polveriera che parlano degli inchiostri ribelli, verranno quelli del CPA che parlano un po' della musica che loro fanno, verrà la compagnia Corpi che fa questa performance bellissima antirazzista, e insomma soltanto per cominciare, per dire alcune delle cose belle che ci sono, perché la produzione culturale qui non se la fila nessuno, perché si deve sempre vivere sulle spoglie degli antenati e sul David. Oh, beh, viva quindi, direi. Bello, bello. Ci piace, vero? Sì. Poi facciamo anche il cinema, quello è buffo. Il giovedì, perché, vero? Sì, il giovedì sera c'è il cinema inchiostro. Perché è buffo? È buffo perché non eravamo convinti per niente, poi sempre così, e perché ci fa un po'... allora, no, ma come anche il cinema? Oddio. Invece no, bello, legge, questo ciclo sul lavoro anche. Smetto quando voglio, l'ultima volta. Il lunedì al sole, poi, la legge del mercato di Brisé. Sì, giovedì, questo 7 minuti e 2 giorni e una notte dei fratelli d'Ardenne, si chiude bellamente il 21, poi dopo sì. Però c'è un sacco di altre cose, giovedì, certo, questo giovedì se non sbaglio c'è un'iniziativa molto interessante, in particolare hanno curata proprio i Clash questa, sì, e cioè sull'alternanza scuola-lavoro, e allora lì ci saranno la rete dei collettivi di studenti medi, colletti universitari, altre persone che ora mi sfugge, ma insomma c'è il programma a qualche parte, la Cobas pagina scuola, Cobas scuola, UB, bravo, e USB. Ecco, mica male. Ecco, e si parla di questa alternanza scuola-lavoro perché è l'ultima moda per far lavorare gratuitamente i minorenni, quindi è sfruttamento minorile. Eravamo arrivati ai neomaggiorenni col tirocinio universitario, adesso siamo riusciti anche a prendere. Ora, il lavoro minorile era una cosa orrenda, adesso è legalizzato. Gratuito, e quindi ci sono persone che si fanno 400 ore negli istituti tecnici l'anno di lavoro gratuito, dove... non è che c'è una formazione professionale, poi il punto è anche necessariamente quello, perché se fosse quello diceva vabbè, sai, ecco, quindi assolutamente vabbè. Allora, a ricordare dove possiamo trovare tutte queste informazioni, sì. Allora, c'è intanto c'è un sito che è quello per un'altracitta.org, dove trovate anche i pezzi della rivista, tutto quanto. Poi c'è la pagina Facebook Inchiostro. Quindi andate su Facebook, la pagina Inchiostro, e lì trovate tutto praticamente. E, sì, non credo dover dire altro, insomma. Il luogo fisico è in via degli Alfani 49, dietro la rotonda Brunelleschi. Anche quello uno spazio vuoto che ormai sì, non c'è più niente dentro. E noi abbiamo questo spazio lì dietro, era un'ex cappella. Sì. E lì ci facciamo tante cose. Ma se andate su Facebook trovate il calendario. Noi facciamo un calendario quindicinale. Benissimo. Perfetto, comunque in chiusura di trasmissione nella rassegna eventi ripeteremo gli eventi che abbiamo appena detto dello spazio Inchiostro. Bene. Bene, il tempo vola, signori. il tempo vola. Bene, Ornella, abbiamo finito il tempo a disposizione, purtroppo. Certo. Abbiamo detto tante cose. Tantissime. Assolutamente. Sì, tantissime. Noi ti ringraziamo, rimandiamo tutti gli ascoltatori per approfondire proprio a questo ciclo di incontri che si occupa proprio del diritto alla città e che anche a noi, proprio noi stessi, siamo partiti nel ragionare anche proprio da quella prima, da no? Sì, da quell'incontro. Primo incontro. Bene, allora grazie dell'invito. Grazie a te. Grazie, grazie a te. Buon lavoro. Grazie altrettanto. Grazie. Super Wombat. E regia, cosa lanciamo? Cosa lanciamo? Aspettate, devo cosa leggere. Cosa lanciamo? Gargamella, Sibyl. Gargamella. In onore a uno splendido concerto che c'è stato venerdì scorso all'Emerson. Grande serata, abbiamo pubblicizzato, che dicono sia andata veramente bene anche dal punto di vista artistico. Sì, sì, magari sì, figata. Drago dopo ci racconta. È stato molto molto bello entrambi le due cose. Viva, quindi Gargamella con... Sibyl Wombat. Thank you. E rieccoci qua sulle frequenze di Radio Wombat. Questo è Fuoco alle Polveri, 45esima puntata. Sono le 17.41 e noi abbiamo un altro ospite speciale, che è il nostro inviato preferito da Bologna. Ciao Bristi Frilli. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Figurati, poi non è proprio l'invito, sei comparso. Perché è stato comparsato? Diciamo, ormai mi capita sempre meno spesso di ritornare a Firenze. Come sapete, ormai sono diversi anni che sono stanziato a Bologna. Fa sempre piacere venire a trovare i vecchi compagni giù alla polveriera e vedere come se la passano. Tra l'altro oggi ottima riuscita quella dell'intervista, sono stato molto contento di capitare in questa giornata. Senti, ma hai sentito tutti i discorsi, la tua città natale, vedi in che condizioni è. Ma certo. Bologna come se la cava? Perché col decreto Minniti in realtà anche lì botte dure. Sì, prima si è parlato infatti del Dazio senza tetto, no? Esatto, di Bologna. Daspot. E sì, sono molto emozionato. Pure il Dazio. Pure il Dazio. Devi pagare per andare via. E no, a Bologna effettivamente si sta riscontrando una situazione che si avvicina sempre di più a quella di Firenze di oggi. Addirittura. Ovvero certamente che chiusura di spazi occupati, chiusura di realtà occupate, realtà indipendenti, cerca di dare sempre meno spazi alle realtà autogestite. E fondamentalmente si va verso questa, diciamo, iperindustrializzazione del turismo ricco all'interno del centro città. Questa cosa si sta riscontrando e, diciamo, da fiorentino espatriato a Bologna riscontro, diciamo, molte similitudini adesso tra le due città che fino a 10 anni fa non si riscontravano. Quindi, diciamo, quell'oasi, tra virgolette, quell'oasi felice che era Bologna, adesso si sta tranquillamente svendendo. Infatti le tematiche che oggi sono state portate in questa trasmissione sono tematiche a me molto vicine, in quanto abitante di Bologna, diciamo. Che poi Bologna è una città rinomata per la presenza molto ampia di studenti. Chiaro. Quindi, chiaro. Chiaramente gli studenti vengono da fuori, sentono come problema, perché venendo da fuori non sentono Bologna come città loro, magari in certi casi. Allora, sentono questo cambiamento come un problema anche loro? Oppure se ne fregano? Allora, dipende. Nella fattispecie, allora, dividiamo gli studenti in due popolazioni, va bene? Sì. Due grandi popolazioni. C'è la popolazione degli studenti fuori sede, che è la stragrande maggioranza degli studenti che abitano a Bologna. E ci sono gli Erasmus, gli studenti bolognesi non li consideriamo neanche, ok? Okay. Allora, gli Erasmus li possiamo tranquillamente rimuovere da, diciamo, la frangia, certo, certo, sociale, sociopolitica, attivistica, è quello che vi interessa. Anche se non sempre, non anche tutto. Se non abbiamo sempre. Degli ottimi esempi qui a Firenze. Certamente, anche se non sempre. Diciamo che la stragrande maggioranza degli attivisti li possiamo riscontrare negli studenti fuori sede, che si trovano spogliati dei diritti che sarebbero loro, diciamo, che di cui dovrebbero essere conosciuti, ecco. E la fortuna, secondo me, di Bologna è infatti proprio questa, comunque, che gli studenti fuori sede che abitano la città per diversi anni, si impegnano, sono nello strato sociale della città, si attivano politicamente in maniera quotidiana, continuano a lottare nonostante vengano loro segate le gambe in mille modi. Abbiamo gli esempi dell'XM, abbiamo gli esempi della BA, abbiamo gli esempi del 36, abbiamo mille esempi a Bologna in cui l'amministrazione ha chiuso spazi di discussione, spazi di cultura, spazi di apertura, ma anche spazi di housing. Voglio dire, il LABA, che ha subito una discreta mazzata quest'estate, diciamo, ospitava letti per diverse decine di persone. Queste persone ovviamente non erano gli studenti, erano gli stranieri senza permesso di soggiorno, per esempio. Cioè, ricordiamo che a Bologna ad agosto non è stato stampato un singolo permesso di soggiorno perché mancava la carta. Beh. Per i permessi di soggiorno, e non è stato stampato un permesso di soggiorno in tutto agosto. E quindi sì, secondo me gli sforzi che questi ragazzi portano alla città sono indubbi e insomma vanno ricordati nel quotidiano e soprattutto vanno presi esempio, ragazzi. Bene, bene, in questo poi prima parlavamo con Lornella, appunto cittadinanza che cos'è? Appunto in realtà è qualcosa di più ampio che ci dimostra anche Bologna. Al di là del diritto di voto, certo. E insomma è Bologna è una città che viaggia veramente a velocità supersoniche. Velocità che mi ricordano un po' quei rombi di motore che sento in lontananza arrivare, o sbaglio? Fammi sentire, sto sentendo bene, ora si avvicina, gira la curva e sentiamo, sento anche un po' di tedesconia nell'aria. Non mi ricordo niente, ho la testa vuota. È la settima volta che devi rifare la patente. Beh, certo, ormai te la ritirano per un'infrazione da niente. Hai investito un vigile. Capita. Nel salotto di casa sua? Vabbè, acqua passata. Cerca almeno di darmi una mano, fammi una domanda. Quanti punti si perdono in caso di gara di velocità tra i veicoli? Perdono, vincono. 10 punti al primo, 8 secondo e sei al terzo, come in Formula 1. Ascolta, ascolta Bristi Frilli, ascolta. Der Start. Null auf 100 in 2 Sekunden. Eccoci. Ciao Mario. Ciao amici. Allora, abbiamo parlato troppo seriamente fino ad ora. Penso che sia il mio momento di abbassare drasticamente Grazie. Il livello di questa trasmissione. Abbiamo iniziato con una citazione di Paolo Bitta, non so se l'avete riconosciuta, che intanto ci ricorda il sistema di punteggio in atto nella Formula 1. 10 punti al primo e a seguire, però voi vi siete distratti qua. No, sempre. Ma ciao, parla con noi, parla con me Bristi Frilli. E a parte questo, noi perché citiamo Paolo Bitta? Ve lo ricordate Paolo Bitta di Camera Caffè? Certo, certo. Qual era la sua auto? L'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo, perché parliamo di Alfa Romeo? Qualcuno lo sa? Io lo so. Sentiamo. Perché Marchionne ha detto che tornerà in Formula 1. Marchionne ha detto che tornerà in Formula 1. Noi seguiamo i capitalisti con questa rubrica. Marchionne ha detto... È sempre bene tenere d'occhio i nemici. Sì, sì. Soprattutto se vogliono andare anche forte con la esatto. macchina. Che ritornerà l'Alfa Romeo in Formula 1. Ritornerà comprandosi praticamente la Sauber, che era con le pezze al culo, stava per fallire. È arrivato Marchionne. Dove la storia ci hai raccontato tu? No, no, quale storia? Del riccone. Ah, no, aspetta, tempo al tempo anche con il buon VJ. Tempo al tempo col buon VJ. Ho già sbagliato settimana scorsa interrompendoti, vai. Comunque, parliamo di questa Alfa Romeo che ritorna a gran voce in Formula 1. Un Alfa Romeo che ritorna in Formula 1 sponsorizzando la Sauber, grandi aspettative. E l'unica pecca che Marchionne dice di aver avuto in questo processo è stata quella di non riuscire ad aver messo di non essere riuscito ad aver messo un pilota italiano, cioè Giovinazzi, a correre, perché nella Sauber, nella nuova Alfa Romeo, correranno il francese Charles Leclerc, che tante volte abbiamo annunciato come certo, piccola promessa in arrivo, insieme al Pipperson, o meglio Ericsson, un pilota scarsissimo svedese che corre soltanto perché è tipo il nipote del signor Tetra Pak. Cioè, avete presente il Tetra Pak? Cioè, il signor che ha inventato il Tetra Pak? No, ma tipo è una mega lobby, però a capo c'è Tetra Pak, okay. Che c'è tipo tutto, dalle sottilette alle ciabatte, okay. E sponsorizza duro la Sauber questa insieme. Roba. Sì, sì, a volte insieme. E sponsorizza tutto questo signor Tetra Pak, fra cui Ericsson, che quest'anno ancora correrà nell'Alfa Romeo. Ma a parte l'Alfa Romeo, sapete chi c'era allo scorso Gran Premio che abbiamo già citato la volta scorsa perché Hamilton è andato col casco d'oro a fare il tamarro certo. ad Abu Dhabi? Sapete chi ci è andato anche in pista? No. C'è andato il buon Lapone, Lapo Elkan, a proposito di personaggi interessanti. E abbiamo un'esclusivissima intervista con Lapo Elkan. Oh mamma mia. Sentiamolo. Vivere questo bolide rosso in questa stagione, se hai sognato anche tu il mondiale. La Ferrari fa sognare tutti noi, è stato un anno estremamente difficile, faccio i complimenti a Mercedes, ma faccio i complimenti a tutta la squadra Ferrari che ha fatto un egregio lavoro, dai piloti ai meccanici, tutti, perché siamo una famiglia, siamo una grande squadra unita e compatta e come tutti ci auspichiamo, ci auguriamo l'anno prossimo di vincere il campionato del mondo. Quest'anno dobbiamo inchinarci e fare i complimenti a Lewis Hamilton, ma faccio i complimenti a tutto il team che ha fatto un egregio lavoro, ha lottato fino alla fine, ha dato il massimo sempre, in ogni gara, ogni momento. Purtroppo sono capitate anche delle sfortune, ma siamo in una buona posizione, pronti per ripartire e oggi speriamo di portare a casa la vittoria. Buona gara allora. Grazie. Grazie. Ciao, ciao Lapo, grazie. Sempre in gran forma. Lapone. No, però dice che si sta disintossicando, che deve ringraziare fra l'altro un medico di Padova che crede in questa roba, che sono tipo sedute da 20 minuti in cui ti bombardano con queste onde, che l'avevano inventato all'inizio gli americani per l'esercito, poi era stato applicato per i depressi, adesso anche per i malati di sostanza. E lui, la Polka, va in giro a dire grazie a questo medico di Padova, che ha metafora la medicina e l'alchimia, questa roba. Terapia oculare, no? Funziona che facendo queste cose può continuare a farsi come un dannato, però... Forse gli va spiegato, infatti non funziona così. Ottimo. Bisognerebbe chiarire meglio al buon Lapone. Lo segnerò sul mio libro del Non me ne frega niente. Comunque, in realtà, a proposito di Non me ne frega niente, grande polemica per il fatto che Lapone il sabato si è presentato con la giacca gialla, come la Renault. Ragazzi, ma tifa Ferrari, gliel'hanno detto, e la domenica rossa, il buon Lapo. Occhiali rossi, tutto rosso, scarpe rosse. E a proposito di Lapo Elkan, oggi siamo sulla Lapo Elkan. Ha aperto col cuoco cracco, frucco, come si chiama quello? Cracco. Col cuoco cracco, ha aperto una roba tamarrissima a Milano che si chiama Officina Bistrò, che ne so qualche cosa. Forse Sbirbilli, come si chiama il nostro amico bolognese? Fristi Frilli, forse lo sa. Comunque ha aperto in questo benzinaio una specie di magazzino per le autovetture dove ho tutto, dice, li puoi portare anche yacht e elicotteri, controllato. Ah ok, allora l'elicottero sappiamo dove jet. E lui ti fa gli interni o gli esterni, e ci sono delle fotografie sul sito di questa roba in cui ci sono tipo questi esterni a dalmata, di queste auto a dalmata, questi interni in radica per gli elicotteri. Però non ho capito. Che questo posticino c'ha anche un angolo ristorazione di lusso, perché il mondo dell'eccellenza culinaria insieme al mondo dell'eccellenza motoristica si uniscono in questo grande progetto imprenditoriale italiano. È tipo, boh, Pimp My Luxury. Sì, okay. E noi non vedevamo l'ora. E infatti, secondo me, se gli dai un anno di Max, probabilmente ci fa anche una trasmissione su questa roba. Comunque, a proposito sempre di Lapo Elkan, non mi sono potuto esimere dal portare per far capire quanto male stava prima di passare dal medico padovano, quando gli facevano delle interviste. Questo è riguardo alla Juventus, un'intervista di tipo 5 anni fa. Vogliamo sentire il buon Lapone al meglio della sua forma. Sentiamo. E che sia stato fatto, che Ranieri è, resta e rimane un signore, come gli ho detto 2 mesi fa, e le mie parole non le tiro indietro. Sono solo le mezze calze che le tirano indietro. E in quanto tale mi permetterei di dire solo una cosa, con massima umiltà: credo che se da 2 mesi pareggiano non sia solo la colpa dell'allenatore ma anche dei giocatori. Dunque i giocatori mettono, scusatemi il termine poco raffinato, ma i coglioni sul tavolo, e dimostrano quello che valgano sul campo, perché la colpa è anche loro. Dunque Dino prova di coraggio, e Dino prova soprattutto anche di rispetto di una persona che le ha guidate. Dunque qualsiasi cosa e qualsiasi decisione presa da chi di dovere, io, come ho detto, primo di tutto sono un semplice tifoso, quando non faccio parte della dirigenza né di niente di quello che è operativo all'interno dell'azienda Juve, quello che mi sento di dire è: lo stile va sempre preservato. Fatti così, io sì, sta il giocatore toglierlo fuori, vincere le partite e dimostrare quello che non hanno dimostrato negli ultimi 2 mesi. E non credo, come ho detto prima, che la colpa sia solo dell'allenatore. Cioè, era questo era DJ Franchino, il remix ufficiale, e che si impegna comunque. Cioè, non è che ti ha una risposta sbrigativa in 2 parole, no, comunque ci si mette. Ci ha sempre provato. Gli bisogna rendere un merito. Coniugare i verbi è faticoso. Vabbè, ma poi lui parla sempre in inglese, quindi secondo me quella era un po' defiance da disabitudine, sì, no? Sì, è vero, è che ormai è su International, The Good Late. Quindi il punto è il ritorno della... No, il punto non c'è. La Sauber. Sauber ritorna. Sauber è un po' scoppiata. Arriva con la sponsorizzazione Mercedes. Sarà Mercedes Alfa Romeo, Leclerc e Ericsson. Questo pilota svedese che non ci piace molto. Poi l'altro punto, qual è stato? Di cosa cazzo abbiamo appena parlato? Non me lo ricordo. No, come lo te lo ricordo? Come del pischellino promettente che comunque sia, sì, l'anno, sì, prossimo guiderà, di Lapo Elkan. Ah, Lapo Elkan, abbiamo parlato, sì, molto, sì, di Lapo Elkan, che sbaglia vestiti, avete visto. E adesso parliamo invece di un caso che abbiamo iniziato a seguire ben 3 mesi fa, il caso Butkowski. L'abbiamo iniziato a seguire in occasione dell'invito qua di alcuni collettivi poetici, mi pare Fumofonico era, e abbiamo seguito questo caso Butkowski perché questo tizio si chiama un po' come Bukowski, un poeta, e sì, allora stiamo seguendo, certo, questa linea, questo fil rouge che ci porta fino adesso. Perfetto. Per chi non se lo ricorda, Butkowski era un dirigente della FIA, un super dirigente, uno che sapeva tutti i segreti anche degli anni a venire, di come la federazione andava a impostare il regolamento e le cose. Si è escluso, si è licenziato una lettera di dimissioni, perché? Perché è voluto andare alla Renault a fare il bello e a guadagnare un sacco di soldi. Questo è quanto. E il caso Butkowski adesso è stato risolto col fatto che tutte le squadre gli hanno un po' rotto il cazzo. Tutte. Jean Todt, presidente della Fiat, ha fatto la voce grossa. Il buon Butkowski ha detto: vabbè, ma io faccio gardening leave, sarebbe quel periodo d'attesa per quanto mi dite voi. Gli hanno detto: allora fallo per il doppio del previsto, anziché 3 mesi 6. E tutti hanno detto: vabbè. E così un po' tra luce e vino è finito il caso Butkowski, che presto, anzi dall'aprile del 2017, sarà ufficialmente alla Renault. Corpo capo, per favore. Ho una domanda per te poi. Dica. Ma senti, ma in televisione stanno sponsorizzando un sacco anche la Formula E, se non sbaglio, quella delle macchine elettriche, è vero? Casca a fagiolo questa domanda, era proprio l'argomento di cui volevo parlare. Mi fa molto piacere. La Formula E sono le macchine elettriche, è un po' la serie dove vanno a ritirarsi poi i pittori, ciao. I piloti, sono un po' malato. Sei un po' la poelca, neanche me. No. Oggi sei un po' lapo. Non mi dino di lapo Elkan, gentilmente. Ebbene, si vanno a rifugiare lì un po' i piloti scoppiati, i piloti che hanno un po' fatto il loro tempo. Per esempio c'è un ottimo ex pilota, Nick Heidfeld, che corre in questa categoria. Sono macchine belle comunque, se le vedi sono belle, sono motori elettrici. Il cazzo è che vanno a 170 all'ora, quindi un po' un pilota abituato ad andare a 370 ci sta che si rompa un po' il cazzo. E poi sono pure un po' pippe i piloti, diciamoci la verità, perché fanno delle manovre assurde. Infatti è divertente perché si picchiano e si sorpassano a diritto. Oh, almeno un po' stile NASCAR. Non è stile NASCAR, sono circuiti cittadini, un po' stile Formula 1 lenta, con macchine che sono fatte apposta per picchiarsi. E poi non c'è tutto quello che c'è in Formula 1, tipo che devi controllare la benzina, devi andare a velocità di crociera per mantenere bene il motore, il degrado gomme. Là il gioco è, vai al massimo fino alla fine. È che il massimo è un po' poco, però si divertono comunque quelli che ci corrono. Okay. Siamo al quarto anno di Formula E, un buon campionato. Anche il buon Massa, che si è ritirato quest'anno, sembra vada a approdare in Formula E. Fra gli ex piloti che ci sono già approdati, dicevo, c'è Nick Heidfeld, un buon pilota, che nella prima gara di lancio di questa serie fece un pazzesco incidente all'ultimo giro con un altro pilota russo, che mi pare sia Petrov, ma non sono sicuro, che fu speronato e fece questi triplici giri mortali in aria, riatterrando senza illeso in sostanza. Cosa è successo? Che Hamilton... Vai. Cosa è successo? Che Hamilton l'altro giorno, cioè 2 giorni fa, si è svegliato, ha visto su YouTube un video di Formula E, che era per l'appunto la gara inaugurale, e ha pensato che fosse l'ultima gara disputata di Formula E. E allora... Hamilton sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo il buon Hamilton. E allora ha fatto un post e ha detto: oddio, che terribile incidente, questa è la manovra più scorretta che abbiamo visto nella mia vita. Nick, cioè Heidfeld, stai bene, amico? E poi gli è stato fatto notare: guarda, è successo 3 anni fa. Nel frattempo hanno tutti continuato a correre. Sta bene. Sì, mi sono ripreso. Sono fuori dal mondo dei motori, Hamilton. Pensi soltanto veramente a discoteche hip hop ormai. E Gesù, esatto, Gesù. La famosa cristoteca, no? Sì. Il buon Hamilton continua con i suoi tatuaggi, caschi di Gesù, e a benedire a sinistra e a destra anche tramite i suoi account social. E quindi niente, era per dire che comunque la Formula E è una serie interessante, Hamilton sbarella duro, ma l'ultimo argomento di oggi ve lo annunciamo dopo uno zoom zoom. Vai Hapo. Schumacher. DJ Mallia è il patron della Force India, quel personaggio interessante indiano che stiamo seguendo da un po' di tempo, che è stato il fondatore di Air India, non mi ricordo come si chiama la compagnia di bandiera indiana, insomma, che poi ha fatto fallire con bancarotta fraudolenta, è scappato in Inghilterra, ecco, i suoi soci in India sono tutti acchiappati al gabbio, l'hanno già acchiappato e rilasciato su cauzione 2 volte in Inghilterra, per riciclaggio l'ultima volta, perché era stato accusato di aver riciclato tutti i soldi tirati via illegalmente dalla compagnia aerea nella squadra di Formula 1. Gli sono state date anche da noi una serie di proposte di evasione, per esempio di rifugiarsi dai pakistani a Roma, dove nessuno lo troverebbe. E tuttavia il buon Vijay è ancora al piede libero. Non di meno, però il governo indiano stringe un po' e gli ha detto al governo inglese: dacci Vijay, lo mandiamo al carcere quello bello di Bombay, dove non gli succede niente. E Vijay ha detto no, perché al carcere indiano si può morire. E ha cacciato fuori con i suoi avvocati un caso in cui l'anno scorso un prigioniero è stato ammazzato di botte, in poche parole, in un carcere indiano. Dai pulotti? Sembrerebbe cioè di sì. Dai carcerieri? Sembrerebbe proprio di sì. E Vijay Malli ha detto: no, nei carceri indiani si rischia, io per i diritti umani chiedo di non poter andare in carcere a Bombay. Il governo indiano ha detto: guarda, stai tranquillo, ti si manda nel carcere di massima sicurezza, nessuno ti tocca. E adesso c'è questo contenzioso ancora aperto fra... Che solo nei carceri indiani si muore di botte. Solo nei carceri indiani. Infatti lui vuole stare nei dignitosissimi carceri europei. Amici, ho finito. C'è una cheat. Hai una cheat? Non è granché. Però... Vai. Mettiamo che ti ferma un vigile. Oh, manco per scherzo sta roba, oh. E invece succedono per davvero, eh? Mettiamo che ti ferma dopo un inseguimento a 200 all'ora che si è concluso solo perché tua moglie ti ha supplicato di fermarti, fermati, ti arriva il vigile, patente libretto. Non gli dico niente, solo nome, grado e numero di matricola. Sei scemo, mica siamo in guerra. Forse tu no, io e i vigili sì. Siete in guerra? Già, da 12 anni ininterrotti, con una tregua solo a Natale di 2 anni fa. Abbiamo firmato l'armistizio. E poi? Lo sai come vanno queste cose, c'è sempre qualche provocatore. Mi hanno fatto la multa per divieto di sosta, io per rappresaglia ho investito un gruppo di ausiliari del traffico. Che orribile. Cosa ci vuoi fare, amico mio? È la guerra. È bellissimo. Bellissimo, davvero. Ok, siamo sempre qui. Ora 18.02, il tempo vola. Beh, ascoltiamoci questo pezzo, no? Ma perché no? Thank you. buon pomeriggio e buona mattina e buonasera a tutti voi amicicissimi di Fuoco alle Polveri e di Radio Ciao, ciao. Allora raga, niente, io ho fatto questo pensiero un po' di giorni fa, stavo sul tram e pensavo, cazzo, dopo tutte queste puntate di Fuoco alle Polveri, vabbè, abbiamo fatto Modugno, Rabagnati, Carosone, Arigliano, ma ancora non abbiamo mai parlato della regina incontrastata della musica italiana. Soprattutto non abbiamo mai sentito la canzone, regina delle canzoni, la canzone delle canzoni. Quindi mo, senza che vi racconto niente, ce la spariamo subito. E dai. Quindicesimo posto in classifica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei Fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo. Cioè Nilla Pizzi! Giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti. Han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Bella. Che pezzo, ragazzi. Non l'avevo mai sentito. Ma no. Sì, Sì, che l'avevi sentito. Sì, ma sì, sentito, che l'avevi sentito. Ebbene, ragazzoni, spero vi sia piaciuta questa mega, mega, mega canzone, Grazie dei Fiori. Facciamo un attimo un discorso a ritroso per capire meglio chi è questa mega regina Nillona Pizzi. Nasce nel 20, praticamente nel 1919. Inizia a diventare famosa nel 37 perché vince questo concorso che si chiama 5.000 lire per un sorriso, che praticamente era cioè l'antesignano di quello che poi diventerà Miss Italia in Italia, appunto. Quindi una bonazzona che diventa famosa perché è molto bella. Nel 42, grazie alla sua meravigliosa voce, vince anche un concorso per l'EIAR, cioè l'ente nazionale radiofonico italiano, un concorso gigante a cui c'erano state tipo 10.000 iscrizioni, 10.000 partecipanti. Lei vince, arriva prima e si esibisce, inizia ad andare in giro in tournée con questa orchestra, tale l'orchestra Zeme. Va molto in radio. Il problema fondamentale è che dopo un po' il regime è costretto a censurarla perché la sua voce è troppo sensuale, fa innamorare troppe persone. Quindi radiata dall'intrattenimento durante il ventennio, solo nel 46 riuscirà a reintraprendere il suo percorso per la fama imperitura che ancora la caratterizza. Insomma, nel 46 riesce con un'orchestra, l'orchestra del maestro Angelini, di nome Cinico Angelini, chissà se di nome di fatto, comunque innamorato di lei, evidentemente, perché ci si innamora degli stronzi. Vabbè, battuta triste. Insomma, io non l'ho capito, fa tanti pezzi che piacquero moltissimo all'epoca. Rewind. Tra i più importanti, Che si fa, che sentiremo più tardi, e Bongo Bongo, se ci avete presente, la stiamo sentendo qui sotto. Tra l'altro è diventata famosa in un film che vi consiglio vivamentissimamente di guardare, che è di Blasetti. È un film che si chiama Peccato sia una canaglia, il film che ha lanciato Mastroianni, che ha lanciato la Loren in coppia con Vittorio De Sica, che fa il padre ladro di Sofia Loren. Un film meraviglia, meraviglia, guardatevelo. Lo guarderemo. Fatto sta, nel sì. No, l'hai rotto. Hai rotto tutto. Sì, faglielo vedere. Allora. Altro che Mastroianni, la boccia. Sanremo decideva di mettere a cantare quella canzone lì. E insomma, li chiamarono sul palco. Ma questo Saverio Saracini, purtroppo, di nome e di fatto. Vai così, vai da qua. Di lei, evidentemente, perché ci si innamora degli stronzi. Così, battuta triste. Insomma. Fa tanti pezzi che piacquero moltissimo all'epoca, tra i più importanti Che si fa, che sentiremo più tardi, e Bongo Bongo, se ci avete presente. Ma Bongo Bongo non era quello Bingo Bango Bongo? Sono... No, non lo so. Tra l'altro è diventata famosa in un film che vi consiglio vivamentissimamente di guardare, che è di Blasetti. È un film che si chiama che lanciato... Peccato sia una canaglia, bravo, film che ha lanciato Mastroianni in coppia con la Loren, col padre De Sica, pazzesco, me lo ricordo benissimo, bellissimo. Di Sofia Loren, un film meraviglia, meraviglia, guardiamolo. Sì, fatto sta, nel 51 decide, nel 1951 decide di partecipare a Sanremo e senza aspettarselo per niente vince. Tocca nulla, vince per amor del cielo. Vince, stravince, perché arriva prima e seconda contemporaneamente. Seconda con La Luna si veste d'argento. Poi pensate che questa canzone, sì, Grazie dei Fiori, vende 36.000 copie al tempo. Era stata composta da questo Mario Panzeri e Giancarlo Testoni, che avevano scritto il testo, e la musica invece era di Saverio Saracini. Un triste aneddoto ci racconta che ai tempi, quella era la prima edizione di Sanremo, quindi alla fine del festival, quando fu eletto il vincitore, che era appunto Nilla Pizzi, e questa canzone, fecero salire sul palco gli scrittori della canzone, perché di fatto si premiava la canzone, non la cantante, era l'interprete che Sanremo decideva di mettere a cantare quella canzone lì. E insomma, li chiamarono sul palco, ma questo Saverio Saracini purtroppo non poteva andare perché era diventato cieco da pochi mesi, a quanto pare per una broncopolmonite, mi dispiace. Triste, fatto in effetti, ma perché non poteva andare sul palco? Appunto, forse per la broncopolmonite, non per la cecità. per dirvi l'importanza di questo pezzo vi faccio sentire proprio due note di una canzone magica che Renzo Arbore fece nell'88, che è uscita con questo disco, certo, che si chiama Discao Meravigliao. Sono i pezzi che andavano, insomma, nel suo programma televisione TV Indietro Tutta. Ebbene, niente, sentiamoci Grazie dei Fiori Bis, ma giusto un secondo e poi torniamo a parlare di Nilla Pizzi. Wombat. Dicono che son so, dicono che son so, dicono che son so, lo canzonette, ma poi però le ca, ma poi però le ca, ma poi però le cantano un po' tutti, e adesso tutti un po', li ha visto tutti un po', e adesso tutti un po' canteremo una Nilla Pizzi giù di voce. Questa canzone no, no, questa canzone no, mostra questa secondo me, questa canzone no, scaperseremo. Bravo, top. Grazie dei fiori, grazie dei fiori, grazie dei fiori bis. Grazie dei fiori, grazie dei fiori, grazie dei fiori, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Siamo tutti a Sanremo per cantare. Guarda questa. Insomma, dicono che sono solo canzonette, però poi alla fine le cantano un po' tutti. Tutti, Nico, insomma, tutti. Ritornando, questa qui, Grande Nillona, vince nel 51 primo e secondo premio a Sanremo. Nel 52 arriva e vince primo, secondo e terzo posto. Il terzo premio. Uno Schumacher del Sanremo, poi, direi. Rispettivamente, Vola, Colomba Bianca, Vola, Papaveri e Papero. Lo sai che i papaveri sono alti, certo, alti, certo, alti. E il terzo è stato una donna prega solo per amore, eccetera. È stato il grande periodo d'oro di Nilla Pizzi, che chiaramente si vede intervistata continuamente, va continuamente in radio e in televisione. Chiaramente scoppia anche l'ondata di gossip sulla sua persona, grande amante e molto amata, addirittura questa storia meravigliosa. Dai, di Gino Latilla, altro personaggio radiofonico televisivo molto importante dell'epoca, che cercò di suicidarsi per l'amore che aveva nei confronti di Nilla Pizzi. Insomma, dal 52, 53, 54 non fa che vincere concorsi, tra il Festival di Napoli, il Festival di Tivoli, eccetera, eccetera, eccetera. Canzonissima, addirittura, pensate, nel 58, quando oramai era uscito Volare, quindi già Modugno era diventato il re indiscusso della canzone italiana, solo Nilla Pizzi sarà capace di insidiare un po' il suo trono. Infatti proprio nel 58 lei riuscirà ad arrivare seconda e terza a Sanremo con L'Edera. Sono qui a vinta come l'Edera, e con Amare un altro. L'Edera vincerà anche Canzonissima. Comunque, a parte questo, chiaramente arriverà un suo momento di declino, cioè negli anni 60, quando i crooners, quelli di cui abbiamo parlato tanto spesso, e anche gli urlatori e tutta comunque l'ondata beat che arriva negli anni 60, mette un po' da parte le grandi voci angeliche e regali degli anni 50. Allora lei, buona buona, zitta zitta, che fa? Si dà all'esilio e si apre un mega night per miliardari ad Acapulco. Cenando con Frank Sinatra e James Dean, ci piace ricordarcela così, quindi non andiamo oltre. Grazie. A raccontare la sua storia, penso tra l'altro che sia ancora viva. Piuttosto ci sentiamo un suo pezzo, uno dei suoi primi pezzi, però riproposto anche questo da Arbore, che ci piace tanto. Di Arbore non parleremo oggi, anche se chiaramente lo conosciamo un po' tutti. Con calma. Però tanti sono stati i rifacimenti delle canzoni di Nilla Pizzi da parte di Arbore, più che altro perché lui si sforzò tanto di riproporre quelle canzonette italiane degli anni 50 e prima, Natalino 8, Rabagliati, Nilla Pizzi. propizia appunto questi, ecco, casi maggiori. Anche Bongo Bongo l'ha rifatta Arbore, la conoscete sicuramente più per lui che per lei, appunto. Insomma, ci sentiamo Che si fa? Che si fa con le fanciulle? Chi ancora non sa rispondere a questa domanda, tenga le orecchie aperte. Okay. È un pezzo che è stato appunto rinciso nel 2002 in Tonight Renzo Swing. L'originale era del 48 di Nilla Pizzi e Luciano Bene Bene. Ascoltiamocelo e divertiamoci tutti. Bene, bene. Anche questa puntata di Core è finita. Vi sono tanto vicino, vi voglio tanto bene. Ciao, mi Nino. Grazie. Spero presto di venirvi a ritrovare lì. Quindi, fisicamente. Viva Fuoco alle Polveri! Un grande bacio, viva Fuoco alle Polveri! Viva Radio Wombat! Sì. Viva Nilla Pizzi! Certo. E viva Renzo Arbore, anche un po' di meno, però viva Nilla Pizzi! Dai, Viva, viva Wombat! Che in questo giorno tu mai ricordate, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? Borda. Il rumore del cuore si spezza. Esplode forse. Ma che già fa? Eccoci qua, grazie. Allora, grazie Nino. Veramente, ci ha scaldato. Allora, io desidero uno speciale su Renzo Arbore. Questa è una richiesta, a parte mia. Ha detto che arriverà. Bene, molto bene. Però anche meno Renzo fatto. Arbore, quindi insomma. Ok. Già ci ha fatto capire che sì. È vero, è vero. Però. Allora, senti, non saprei fare il collegamento. A questo allora. Giro non lo so fare un collegamento logico di quelli alla Tuco. Però abbiamo prima accennato che sabato mattina, sabato 2 dicembre, c'è stata la manifestazione che è arrivata fino davanti a Palazzo Vecchio per riconsegnare appunto i pacchi natalizi, ossia le tre grandi opere del nostro territorio. Sì. Sono trovati, c'è stato il ritrovo alle tre a Santa Maria Novella, e il corteo ha sfilato per le vie del centro con io sono arrivato un po' tardi, non ho assistito a tutto il corteo, sono arrivato quasi alla fine, però ho visto che ha toccato tre piazze dove sono stati... cosa è successo? Beh, voi ce l'avete. In che senso? Allora, dunque, il corteo era era organizzato con in testa appunto delle persone in tenuta bianca. Ah, sì, che portavano tre pacchi appunto all'aeroporto. Sì, la nuova pista, l'inceneritore e il tunnel TAV. Al seguito c'era dei fantastici alberi fatti col cartone che rappresentavano un po' il parco della Piana tanto desiderato e agognato. E mai realizzato. Esatto. E poi in realtà dietro a seguire invece tutti i vari comitati, tutte le varie realtà che si sono aggregate. E noi. E il freddo. Il freddo. Un gran freddo, infatti, in fin dei conti, è stata una bella risposta, mi pare. Sì, assolutamente. Per il ghiaccio che c'era. C'era un bel po' di persone. Dai. C'era un bel po' di persone. Noi abbiamo fatto la diretta, cioè Wombat, Radio Wombat ha fatto la diretta. L'Apo, per la precisione, era l'inviato predisposto a ciò. E potrete trovare, quindi, se volete un po' vivervi, l'area che tirava. Sabato pomeriggio. Ci sarà un podcast a breve che ripercorre proprio tutte le interviste che abbiamo realizzato lungo tutto il corteo, dall'inizio alla fine. Sì, poi ci sono appunto i podcast invece di Passaggio a Nord-Ovest, che gli ultimi due podcast sono proprio specifici sulle questioni che poi appunto hanno visto sfociare nel corteo, ecco. Esattamente, quindi niente, andate a ascoltarvelo per sentire al meglio, se non eravate in piazza, molto male, ma... Era bello il Parco della Piana, alla fine l'hanno allestito in Piazza della Signoria, e i tre pacchi sono stati restituiti e c'era invece un super parco fatto con queste scatole tutte colorate che hanno installato in piazza. Poi a un certo punto è arrivata una ventata e che la buttai giù, però hanno resistito comunque. Esatto, quindi questo è successo sabato scorso. E invece cosa succederà in questa settimana? Stavo per dire questo, bravi ragazzi, state migliorando tutti quanti. Aspetta. Sigla. Rassegna eventi. Che comunque è buona, è buona questa. Ok, dai, allora. Quindi andiamo come nostro solito ad elencare ciò che succede in settimana. Già qualcosa abbiamo lanciato prima nell'intervista con Ornella d'Ezzordo. Partiamo da mercoledì. Partiamo da mercoledì 6 in Viale Corsica. Dagli amici di Viale Corsica alle ore 19. Partiamo da martedì. Allo spazio in chiosco. Scusate. C'è l'incontro di cui parlava la d'Ezzordo. Qualcosa anche stasera, ma controllerò. Stasera controlla. No, scusate, colpa mia che sono partito da mercoledì. Martedì ci sono due cose. Quindi ore 15 in quel di Polveriera, l'assemblea studentesca. Con i collettivi fiorentini, Mario aggiunge assolutamente, sull'alternanza scuola-lavoro, appunto il titolo alternanza uguale sfruttamento, gli studenti appunto ragionano a posteriori anche dopo le manifestazioni del 10 ottobre e del 10 novembre contro il provvedimento appunto del scuola-lavoro. E quindi se sei interessati vai Mario. Anche in vista di interessanti e singolari appuntamenti prossimi. Quindi insomma davvero chi può fa parte di un collettivo fiorentino a questa assemblea chiamata dalla rete dei collettivi fiorentini. Provi a venire alle 15 in Polveriera. Esatto, sì. Organizziamoci e confrontiamoci per dar vita a una campagna studentesca cittadina di opposizione all'alternanza. Questo è l'intento. Molto bene, sempre martedì alle ore 18 invece sempre nello solito posto. quindi quel di Polveriera. La presentazione di Disegni dalla frontiera di Francesco Piobicchi alle ore 18, quindi ci sarà questa presentazione di un'opera molto interessante che appunto parte da dei disegni, illustrazioni. Appunto, illustrazioni, esatto. Attraverso l'illustrazione lui prova a passare le emozioni che lui ha provato. Sì, è anche raccontare le storie e le memorie dei migranti, cioè questo è appunto Disegni dalla frontiera. La frontiera un po' fluida. Alle 20:30 invece cena di autofinanziamento, ma per chi? Per le brigate di solidarietà attiva, di cui abbiamo parlato spesso anche in relazione soprattutto ai terremoti che hanno visto la nostra penisola nel passato recente. A Livorno erano quando c'è stata l'alluvione. Ah, bravo, sì, certo. Quindi deve essere stata. E quindi bene, quindi martedì ore 15, ore 15 assemblea studentesca alternanza scuola-lavoro, ore 18 invece alla Polveriera, sempre alla Polveriera, Disegni dalla frontiera, presentazione del libro, più cena di autofinanziamento per le BSA. Mercoledì, ora aggiungiamo quello che avevo iniziato a dire, in Viale Corsica alle ore 19. Aspetta, scusa, no, invece martedì, facciamo così. Martedì, ricordiamo. Ti chiamiamo noi quando è mercoledì, aspetta. Allora, per favore, ditemi martedì. Budino quando è il momento di parlare di mercoledì, va bene? Ok. Vai. Quindi martedì alle ore 18 lo spazio inchiostro, ci aveva già anticipato la Dezordo, cultura usa e getta. È il 1 2 3, il quarto episodio di quello di cui abbiamo parlato oggi, perfetto, parlato oggi. Stavo dimenticando, esatto. Il clou. Bene, Budino. Grazie. Allora, mercoledì ore 19, quindi chissà dove, in Viale Corsica, l'occupazione, proiezione del documentario Resistenza indigena nel nord del Cauca, che è un più il cortometraggio EZLN. Ci sarà anche un collegamento via Skype, peraltro, con Ariel. Comunque, dibattito su questa, sulla resistenza indigena nel nord del Cauca. Molto interessante. Sì. Giovedì 7 dalle ore 18 alle ore 20, allo spazio inchiostro, appunto. Si riparla a ridaglie, ma purtroppo è importante, è un tema impellente. Importante, sì. Smontiamo il mito dell'alternanza scuola-lavoro. Con la presenza, appunto, come dicevamo prima con Ornella, del collettivo Clash City Workers, la rete dei collettivi studenteschi, Coba Scuola, USB Scuola. Di nuovo, appunto, si parla dell'argomento alternanza scuola-lavoro, dal punto di vista, appunto, anche proprio del lavoro in sé. Appunto. Sì, certo. Direi è importante perché è un tema affrontato sempre in modo piuttosto superficiale, se ne sente parlare in modo veramente molto superficiale. Poi, tranne che su Radio Wombat, dove su Radio Wombat, un milione, ragazzi, di approfondimenti, sì, bellissimi, è giusto. Saltiamo a più pari venerdì. Mi confermate prima di fare altri patatrack? Venerdì, sapete se c'è qualcosa? No, allora no. Vai. Comunque, ascoltatori, se avete da mandarci suggerimenti su cosa succede, avete 15 secondi. Avete 15 secondi circa su posta Wombat, che c'è in Siberia, appunto. Net, che non... potete scriverci oppure sulla pagina Facebook. Sabato 9, quindi andiamo sabato 9 con possiamo, sì dai, andiamo con la presenza. Dici no, che quindi abbiamo già superato giovedì 7, giusto? Sì. Invece giovedì 7, vedi? Se io non ricordo male, ci sarà ci completiamo a vicenda, siamo una squadra, ragazzi, ottimo. Ci sarà in Polveriera il pomeriggio un workshop di creazione di fanzine. Ok. Poi apericena e poi concerto surf rock, diciamo. Rock. Il nostro preferito. Molto bellezza. Bene, quindi in Polveriera sempre giovedì dal tardo pomeriggio fino alla... Dal pomeriggio questo workshop di fanzine. Ma quante ne fanno in Polveriera? Un botto. Comunque, posso andare quindi a sabato 9 per lanciare sempre, guarda caso. Venerdì no. È venerdì, non c'ho niente. No, okay. Te c'è qualcosa? No. Allora, peccato. Va bene. Ninjaz, l'MC, presenta il suo nuovo album. Di cui dai, Il nuovo lavoro che si intitola Shogun. Shogun. Shogun. che esce il 7 dicembre per l'appunto. La stanchezza. Sì. E quindi super serata per lanciare questo... Sì, questo Ninjas no. con Numa Ryu e ho letto nell'evento anche diversi ospiti, mi sa. Yodaman. Esatto, Ganji Killa. Ganji Killa, K-Dust. K-Dust. Charlie Da Kilo. Ah, e Charlie Da Kilo. Cavolo. Importantissimo. Bene. Sempre sabato invece all'Emerson. Se siete più vicini a quel dell'Emerson. San Pietrino's Day, dalle ore 17. Pietrino's Day. Esatto. Dalle ore 17 alle ore 18. La super festa della palestra popolare palestra. San Pietrino. Esattamente. E giornata veramente piena, eh? A partire dalle 17 si conclude ad oltranza. Con musica di tutti i tipi, tutte le salse. Non stiamo qui ora a fare momento per momento, perché sono veramente tantissime cose. Dici? No. E vi rimandiamo chiaramente alla pagina dell'Emerson per capire nel dettaglio che cosa succede. Cosa succede quel giorno. Il ricavato della giornata, però, viene dato appunto alla palestra popolare. Sì. Per attrezzature, sì. Miglioria. Penso a, esatto, a in qualche modo, non so come, un impianto di riscaldamento. Esatto, quello servirebbe anche qui. Sì. Non so, da un sacco di parti, sì, anche a casa mia probabilmente. E quindi niente, si conclude qui appunto le questioni che succedono questa settimana. Dai. Non sono bello, poche, pieno, come sempre vi offriamo una vasta gamma di possibilità. Sacco di roba. Prego, eh. Scegliete, mandateci, eh. È questo. Esatto, mandateci. Andiamoci, andiamoci. Bene, allora, come partecipa. Sempre, alla fine della puntata siamo un po' più smosci, vi chiediamo scusa, ma l'energia, noi diamo veramente tutto, sempre. allora, che si fa? Ragazzi, si fa? Siamo in chiusura, abbiamo sforato di ben 8 minuti, pensa te. Vabbè, oggi insomma, abbiamo anche iniziato in tempo. Abbiamo anche iniziato in tempo, esatto. Bravissimi. Quindi puntata interessantissima. Ci sentiamo lunedì prossimo, ore stesso posto, stesso luogo. Ora, 16:30 qui su Radio Wombat, quale polveri. Wombat. Solo sempre Wombat. Fuoco alle polveri. Go how the Paul Berry Radio Bomba. This is Radio Bomba. Sire, ho da darvi delle notizie. Allora, che tipo di notizie sono? Spero che non siano brutte, lo sai che non le sopporto. La giornata è cominciata così bene, ho dormito che era un sogno, sono andato bene di corpo, non voglio sentire brutte notizie. Allora, che tipo di notizie sono? Beh, ad essere sinceri, sono molto brutte. Lo sapevo! Lo sapevo che erano brutte! Aspetta un momento, c'ho un'idea. Perché non provi a darmi le brutte notizie in modo gradevole? Forse sembreranno meno brutte. Le brutte notizie in modo gradevole? Sì, posso farlo. Le brutte notizie in un modo gradevole, sì. Ecco dunque. Sentite che cosa mi è successo. Mi sono imbattuto in Robin di Locksley. È tornato dalle crociate. E ci ha fatto fare una figura di merda a me e ai miei uomini. Sapete, vi odia e ama vostro fratello Riccardo. Vi vuole vedere impiccato. Siamo in un mare di guai. Ma che sei scemo? Che ci avrai da ridere? È una notizia terribile! Voi mi avevate... Io pensavo... Stavo solo cercando di farvi sorridere. Ma hai fatto piagne. È un problema complesso, Sire. Non sarà facile risolverlo. E c'hai ragione. Che se può fa? Che se può fa? Che se può fa? Idea! Latrina! La misteriosa creatura della torre, colei che protegge il mio futuro. Ah, oh, sì, la trina. È orribile.